9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 26 di aprile, ho da Oscar Giannino, torno perché ogni tanto faccio un po' di manutenzione, quindi nessuna preoccupazione, però insomma tentiamo di evitare e di essere fedeli al nostro appuntamento con voi. Lo dico perché poi tante vi preoccupate, ma insomma siamo qua. E oggi ci occupiamo di degli sviluppi all'interno del PDL e dopo le nuove esternazioni del Presidente della Camera Gianfranco Fini ieri alla trasmissione Mezz'ora di Lucia Annunziata, per capire se le parole di Gianfranco Fini rispetto al confronto energico, molto muscolare tra Fini e Berlusconi avvenuto alla direzione del PDL la settimana precedente rappresentano una novità rispetto al confronto tra i due leader che appariva destinato a sboccare in elezioni o comunque nell'impossibilità di condividere uno stesso partito. Diciamo che le interpretazioni della stampa, stamattina avete sentito la rassegna, sono abbastanza convergenti nel rappresentare le parole di Gianfranco Fini di ieri come il tentativo di essere ragionevole, di giudicare irresponsabile la prospettiva di un voto anticipato, e più moderato, per così dire, nel esprimere, sempre confermando l'intenzione di rappresentare una destra senza bava alla bocca, ha detto, quindi una forte differenziazione rispetto ai toni di Berlusconi e della stragrande maggioranza del PDL che continua a riconoscersi in Berlusconi, anzi che ha firmato un documento al termine della direzione di quel partito in cui quel partito non si definisce un partito, si definisce... si conferma come movimento carismatico senza correnti interne, con la legittimazione, certo, per i componenti e per i dirigenti ad articolare opinioni, ma con l'obbligo di doversi uniformare all'opinione maggioritaria. Ecco, su questo resta una distinzione forte da parte di Gianfranco Fini e dei suoi, ed è una distinzione che anche ieri il Presidente della Camera ha articolato su alcune posizioni che sono quelle oramai ben note, dalla giustizia all'immigrazione, alla visione del confronto sulle riforme istituzionali. Il Presidente del Consiglio a propria volta ha passato il fine settimana del 25 aprile con toni istituzionali e moderati. Avete ascoltato o avete letto almeno il suo messaggio agli italiani in occasione del 25 aprile insieme al capo dello Stato a Milano il giorno prima, sabato. Berlusconi è stato molto attento ad aderire con grande attenzione appunto ai toni e agli argomenti usati dal capo dello Stato. È ovvio che si trattava di una posizione intenzionale per impedire a chiunque di sollevare eccezioni e di notare distanze tra sé e il Presidente della Repubblica. Certo, poi la maniera in cui i partigiani delle posizioni di Berlusconi e di Fini tendono a rappresentare il confronto interno è un pochino il carburante sul fuoco piuttosto che la ragionevolezza, almeno questa è una mia opinione personale, e comunque vedremo se prevarranno le attenzioni per gli italiani che vorrebbero 3 anni di riforme, interventi e poi giudicare alla fine, solo alla fine con il voto, o se prevarrà questa sorpresa che improvvisamente ha cambiato nuovamente dopo le regionali le carte in tavola nella politica italiana. La mia opinione netta è che non si possono avere dubbi su che cosa gli italiani nei diversi sondaggi intendano come prioritario, e cioè riforme, interventi per l'economia, anche istituzionali, ma insomma approfittare di questi 3 anni. Chi sono i nostri ospiti con cui approfondiremo oggi il tema? Innanzitutto Gaetano Quagliariello, il vicepresidente vicario del PDL al Senato. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Il senatore del PDL, presidente delle commissioni Finanze e Tesoro, senatore Mario Baldassarri. Buongiorno Baldassarri. A tutti voi. E Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Folli. Buongiorno. Allora, innanzitutto Baldassarri, tocca a lei, perché è ovvio che quando si è in lizza e si lancia un guanto di sfida, per così dire, al di là di chi è in maggioranza o minoranza, è giusto che si abbia il primo titolo ad argomentare. La sua opinione qual è? È che l'intervento di ieri di Gianfranco Fini, al di là del confronto muscolare che è avvenuto in direzione alla direzione che non avveniva e che quindi insomma è stata un po' delicata e quasi esplosiva, anche perché insomma non c'era molta consuetudine con questo tipo di confronti, ma che ieri l'intervento del presidente Fini sia alcuni dicono un passo indietro, altri dicono invece semplicemente metta i puntini sugli i, ma dica con chiarezza né un altro partito né tantomeno elezioni anticipate, moderazione, tentiamo di convivere insieme. È giusta questa lettura? Io prima di ascoltare ciò che dicono i nostri leader, quindi Berlusconi, Fini, mi permetto di ascoltare ciò che dicono gli elettori. Gli elettori da 3 anni, 2008, alle politiche, alle europee l'anno scorso, alle regionali in Abruzzo e in Sardegna, alle regionali recentissime, hanno detto una cosa molto chiara. Ha una maggioranza forte in Parlamento per governare, il centrodestra in questo momento non è un'alternativa di governo. Quindi se ascoltiamo gli elettori è evidente che il governo adesso ha 3 anni di fronte, da qui 2010 fino al 2013, e deve governare. Questo cosa vuol dire governare? Certo, tenendo conto dell'esigenza assoluta di tenere i conti pubblici in ordine, con la turbolenza che c'è in giro per il mondo sarebbe irresponsabile, quindi il deficit sotto controllo, cercare di gestire quel moloch di debito pubblico, ma il problema è poi stabilire l'agenda di governo. Il programma elettorale è stato presentato da tutto il centrodestra e a questo punto, molto onestamente, si potrà dire di quei 10-15 punti del programma elettorale, nei prossimi 3 anni il governo e la sua maggioranza in Parlamento si impegna a farne 3 o 4. Questa agenda di governo ha in testa, a mio parere, una pietra miliare, un codice genetico del PDL tutto intero, della Lega e quindi dell'intero centrodestra, che è quello della riduzione della pressione fiscale, delle tasse sulle famiglie e sulle imprese, anche perché non dobbiamo dimenticare che purtroppo ci troviamo a dover gestire la botta in aumento delle tasse fatta recentemente dal centrosinistra e dal governo Prodi, Visco e Padoa-Schioppa. Per poter fare questo seriamente occorre che adesso il governo metta mano agli sprechi, alle malversazioni, ai tagli della spesa pubblica corrente che negli ultimi anni è cresciuta in modo abnorme. Allora il taglio della spesa corrente e il taglio delle tasse deve essere la priorità sul fronte delle riforme economico-sociali. Le riforme istituzionali, costituzionali sono importanti, si debbono fare insieme con la più grande maggioranza possibile in Parlamento, ma dobbiamo tener conto che comunque i loro effetti si potranno produrre dal 2013 in poi. Il tema prioritario è cosa fare dal 2010 al 2013. E allora a questo punto dobbiamo chiarire questo primo aspetto, cioè l'agenda di governo. E questa decisione deve essere abbastanza discussa e collegiale all'interno del PDL e tra il PDL e la Lega. Poi c'è il federalismo fiscale da attuare, ma anche qui il federalismo fiscale da attuare, che è una cosa seria, storica e importante, potrà essere attuato il federalismo se noi ci troveremo in condizioni, anche qui, di spesa storica non sia ulteriormente esposa, altrimenti diverrà difficile a un certo punto dover costringere o comunque indicare a tutti i governi locali che bisogna passare ai costi standard. Se la differenza fra un costo storico di 100 e un costo standard di 50 diventa sempre più enorme, sarà sempre più difficile all'improvviso dare questa responsabilità. E allora il rischio qual è? È che a quel punto il federalismo fiscale, invece che controllare la spesa, dare più potere al cittadino di controllare proprio come i suoi soldi vengono vengono spesi da tutti i governi, da quello centrale a quello regionale a quello comunale, si rischia che ci sia un aumento di tasse. Allora questo è un nodo politico fondamentale. Su tutto questo è difficile dire che la riforma fiscale si farà nel 2013 a parità di gettito, perché dire che è a parità di gettito significa spostare le tasse dall'IRPEF all'IVA, dalle persone alle cose, come viene detto da qualunque altra parte, ma il tema di fondo è come ridurre le tasse, non come spostarle. E il secondo ragionamento è quello del partito. Qual è lo strumento partito che consenta di discutere, ragionare, formarsi delle opinioni, dopodiché di prendere delle decisioni? E a quel punto, se esiste una maggioranza e una minoranza, la minoranza ha il dovere di adeguarsi alle decisioni della maggioranza e sostenerla in modo leale e trasparente. Infine, l'attuale partito, cioè il PDL, è vero che è un movimento carismatico, è guidato da Silvio Berlusconi, però stiamo attenti, perché non è che siamo delle mammolette. In realtà anche attualmente esistono gruppi, esistono soprattutto purtroppo sul territorio, sulle diverse realtà regionali, correnti e correntine che non sono neanche correnti di opinione, di pensiero, di proposta. In realtà spesso sono degli sceicati che qualche volta si cementano solo sul piano del potere. Partito e agenda di governo sono due temi, a mio parere, seri, che debbono essere affrontati magari un po' più pacatamente di quanto non sia successo in direzione, ma il tema resta al di là dei metodi e delle forme. E il mio gruppo al Senato, Quagliarello, sa che questo ragionamento non è che è cominciato con la direzione della settimana scorsa del partito. Al Senato, con un gruppo abbastanza importante di senatori, all'interno del gruppo del PDL, abbiamo posto queste tematiche nei mesi scorsi. Ne avevamo fatto anche una proposta in sede di dibattito sulla legge finanziaria, dopodiché ci siamo assolutamente adeguati alle decisioni del gruppo e del partito, ma non è che abbiamo espresso un voto di astensione su alcuni emendamenti importanti che riducevano le tasse alle famiglie, l'IRAP alle piccole e medie imprese, che introduceva la cedolare secca sugli affitti per i piccoli proprietari. Su quelle proposte, proprio per trasparenza e lealtà, un gruppo consistente di senatori, insieme anche al capogruppo Gasparri, sulla cedolare secca degli affitti, espresse un voto di astensione, perché al Senato l'astensione vale contro, proprio sì, per dimostrare che non volevamo e non vogliamo fare cose serie per i cittadini, per le famiglie e le imprese, spaccando il PDL o Ecco, abbiamo un secondo di difficoltà di linea. Aspetti un secondo, Baldassarri, perché comunque dobbiamo richiamarla. Però lei ha articolato con una certa estensione anche e soprattutto una modalità di confronto. È ovvio che chi ascolta capisce al volo che la modalità di articolazione del confronto espressa da Baldassarri non è propriamente quella che si è vista in questi due ultimi giorni, non è propriamente quella che vibra in interventi come quelli dell'onorevole Italo Bocchino o di Carmelo Briguglio, altri sostenitori di Fini. Quindi bisogna vedere. La domanda che faccio a Quagliariello è una questione di ricerca del tono giusto di un confronto dentro un partito, o in realtà, come è sembrato ai più, adesso andando al nocciolo della questione, sollevare un problema di incompatibilità di leadership, dicendo: caro Silvio, non ti illudere, tu hai pensato dopo regionali che andrai di nuovo al Quirinale dopo 3 anni che ti aspettano, qui c'è un'identità, una persona diversa, una maniera diversa di concepire la priorità, una diversa maniera di concepire il rapporto con la Lega. Ancora ieri ha detto il presidente Fini: federalismo, i decreti di attuazione sì, ma non a tutti i costi, e ha chiesto una commissione, che significa fare un passo indietro, perché vi faccio notare a lei, ma a chi ci ascolta, che oramai siamo ai decreti attuativi. I decreti attuativi vengono con una certa intensità temporale portati dal Palazzo Chigi alla commissione bicamerale, e in commissione bicamerale hanno 60 giorni, poi vengono approvati. Ieri il presidente Fini ha chiesto di nuovo l'istituzione di una commissione per un confronto generale sulle modalità con cui poi bisogna redigere i testi tecnici dei decreti attuativi, quando oramai avevamo imboccato la strada dei testi tecnici, quindi senza grande confronto precedente tra tutte le anime del PDL. Quale di queste letture, Quagliariello, secondo lei? Perché lei a propria volta ha fatto in questi giorni interventi dicendo, insomma, Fini se tiene i toni di giovedì non può stare dove sta. Guardi, io penso che questo sia un momento in qualche modo di svolta per il Paese, ma anche e soprattutto per il PDL. Credo ci voglia un po' di tempo per capirsi e poi per decidere insomma, se è possibile andare avanti oppure no, tenendo conto che la decisione viene presa su un terreno, solo su un terreno, se c'è la possibilità di realizzare il programma e di fare le riforme. Allora evidentemente si resta al potere, perché appunto il potere è un esercizio che si fa per un fine, e questo fine non può essere se stesso, non può essere il potere medesimo. Allora io dico che qui sono in discussione con una vasta zona grigia, nella quale faccio rientrare l'intervento di Baldassarri, due idee di democrazia che in realtà insomma hanno radici antiche. Una è quella che ritiene il luogo della democrazia prioritario il partito. È lì che insomma si fanno le discussioni, si prendono le decisioni ed è lì che ci deve essere la garanzia più assoluta della democrazia. Questa è la concezione classica di Mikels. C'è invece chi ritiene che la democrazia è soprattutto il rapporto tra gli elettori e un esecutivo. Il partito è importante, ma è uno strumento, è un mezzo, non è il fine della democrazia. E questa è la concezione di Weber. Ora noi la ritroviamo nella storia del nostro paese, a lungo il confronto tra queste due concezioni. E qui ci siamo ancora una volta. Allora, qual è il problema? Cos'è in discussione? Baldassarre dice nel PDL ci sono scieccati, ci sono amicizie, ci sono cose, questa è la natura umana, è normale. Ma dato per scontato che il programma elettorale è ovviamente sacro per tutti, la questione intorno alla quale noi discutiamo, è possibile formare una corrente organizzata all'interno che poi abbia ovviamente delle propaggini sul territorio, abbia una sua vita interna, sia un partito nel partito, oppure questa cosa è in contrasto con la concezione della democrazia che il PDL ha espresso? Ecco, io dico la mia, e qui il confine è sottile, ma bisogna capirlo. Io penso che non c'è nessun problema che vi sia una minoranza interna. Questa minoranza però, che può avere anche una certa stabilità se c'è una consonanza di pensiero, non può essere una minoranza organizzata, perché nel momento nel quale è una minoranza organizzata, allora a quel punto fa risorgere quelle antiche correnti della Prima Repubblica che hanno svuotato i partiti dal dentro e che hanno portato alla fine di quei partiti. Aggiungo un passaggio. Questo ovviamente a prescindere da tutte quante i processi alle intenzioni, che qui non c'entrano nulla, il mio è un discorso puramente istituzionale. E questo passaggio diventa ancora più esposto nel momento in cui questa corrente viene guidata dal presidente di uno dei due rami dell'Assemblea. Perché? Perché si può ingenerare il sospetto che le logiche interne al partito di maggioranza relativa abbiano il primato sulla vita delle istituzioni. È una cosa che ovviamente prescinde dalle intenzioni, ma è una dinamica che si può realizzare nei fatti, a volte anche involontariamente. Ora, io la interrompo perché su questo aspetto, su questa maniera di far interagire grande presa personale carismatica con una maniera di interpretare istituzioni che vengono dalla Prima Repubblica, ma di interpretarle in maniera diversa, è una sfida particolare, ma vale per Berlusconi da una parte, che ha una premiership personale carismatica innestata su una leadership personale carismatica, come forse vale per altre istituzioni della Repubblica. Allora la domanda diventerà se l'eccezione su come si vivono le istituzioni, perché Berlusconi ci propone da 16 anni un'eccezione su come lui vive la sua premiership, su come parla, su come agisce, su come contempera la vita privata con quella pubblica, su come contempera le modalità di far battute, di interpretare la sua posizione ai vertici internazionali. Berlusconi è una maniera diversa di vivere le istituzioni. La domanda diventa: vale solo per lui? E perché non deve valere per gli altri? E in che misura? Chi lo stabilisce? Soprattutto lo stabilisce il comunicato finale di quella direzione dove dice che l'intenzione del PDL, anzi la missione, è servire il popolo. Eccoci tornati in studio, e le domande con cui abbiamo terminato il primo confronto molto equilibrato, tempi lunghi, toni scelti tra Mario Baldassarri e Gaetano Quagliariello, lo avete sentito, sembrerebbe non far pensare a sviluppi traumatici. Resta il fatto che però quella tra Berlusconi e Fini a me sembra una partita abbastanza, non voglio dire all'ultimo sangue, ma ci sono due leadership, e secondo me nella intenzione del Presidente della Camera il messaggio chiaro è: tu al Quirinale non ci pensi di andare in carrozza, perché i punti fondamentali della tua azione devono fare i conti con una modalità da parte mia e di chi mi sostiene che tende a dire no, così no. Può essere che io mi sbagli. Qual è l'opinione di Stefano Folli? No, la mia opinione è che non ti sbagli troppo, nel senso che io non vedo un passo indietro in queste ultime ore, vedo semplicemente che le posizioni sono state consolidate, precisate, sì, al netto di certi atteggiamenti fuori sopra le righe di certi tifosi, però effettivamente Fini ha ribadito in un modo pacato quello che è la sostanza della sua posizione. Ed è una sostanza molto difficile da gestire e da riportare poi alla normalità della vita di partito. Il senatore Baldassarri adesso ha lucidamente riassunto i problemi di fondo che riguardano soprattutto, diciamo, l'economia e il modo in cui si potrà effettuare il guado verso un sistema federale che in realtà è ancora tutto da definire, con immensi problemi dietro l'angolo. Tutto questo urta con alcune scadenze politiche immediate, con alcune scadenze istituzionali, diventa un intreccio molto, molto complesso da affrontare, e la posizione di Fini è una posizione che alla lunga diventa un conflitto effettivo molto aspro, nella sostanza più che nei toni, tra due concezioni del modo di essere centrodestra in Italia. Ed è una contestazione profonda alla leadership di Berlusconi, non c'è alcun dubbio su questo, una contestazione profonda alla sua concezione della politica e del modo di stare nelle istituzioni. Allora, quello che deve sorprendere e che colpisce molto è questa improvvisa, questo improvviso ritorno a un clima di concordia, l'appello per le riforme, il discorso sul 25 aprile di Berlusconi, è qualcosa che l'opinione pubblica vede con sorpresa, perché segue di pochissime ore e quello che è stato invece uno scontro mediatico, magari molto mediatico, però certamente molto duro, tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Camera. E questo però significa semplicemente, dal mio punto di vista, che tutti si sono resi conto che bisogna muoversi con molta circospezione rispetto ai prossimi passaggi. Quindi direi che ieri abbiamo vissuto un momento di bonaccia che è molto tattico anche in vista di possibili future tempeste. Questa è la cosa. È chiaro che se le cose sono nel senso indicato da Baldassarri, questi problemi sono difficilmente risolvibili, e sicuramente a me sembra, per esempio, che la Lega non abbia nessuna intenzione di affrontare i problemi nei termini riassunti da Baldassarri poco fa. L'intervista di Bossi alla Padania l'altro giorno, benché poi un po' corretta, però insomma, era un colloquio con il giornale del partito, il giornale della Lega, ed era estremamente dura. Bossi diceva: in queste condizioni non illudiamoci che si possa fare il federalismo come noi lo vogliamo, ci sono troppe resistenze, troppi problemi, troppe questioni irrisolte, forse non risolvibili in questo quadro economico, soprattutto economico. Non c'entra qui Fini, c'entra eccetera, un discorso generale di compatibilità economiche. Ed è una linea, allora, oggi ribadita a Repubblica da Calderoli, rilascia un'intervista dal titolo inequivocabile: la Lega non accetta un doppio PDL, se ci sono ribelli si vale urna. Esatto. Allora, di fronte a queste contraddizioni, che sono insieme di tipo economico e di tipo politico, Bossi diceva l'altro giorno, e sostanzialmente Calderoli dice oggi, diamogli un taglio a un certo punto, diamogli un taglio e andiamo a votare. Quindi andiamo a votare prima del 2013, in tempi anche abbastanza ravvicinati, tutto sommato, potrebbe essere questione di un anno. Allora, tutto questo naturalmente è un passaggio delicatissimo, con implicazioni enormi che toccano anche il rapporto personale fra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, e quindi questo spiega anche il tono di ieri, il tono diciamo di grande improvvisa moderazione, perché è una questione anche tattica, perché se si dovrà arrivare a un'interruzione della legislatura su problemi di fondo, su problemi sostanziali non risolvibili, occorre anche arrivarci senza alimentare prima una rissa un po' inconcludente su cose che possono apparire toni, cose che possono apparire anche poco chiare all'opinione pubblica, e cercare invece di individuare il modo in cui si possa arrivare eventualmente allo scioglimento delle Camere, ma questo richiede tempo, richiede anche in questa fase una certa circospezione. Esattamente. I problemi di fondo però sono profondi e reali. Anche secondo me non si scappa da questo, bisogna evitare un eccesso di personalizzazione, un eccesso di nella partigianeria tra i sostenitori, ma qui si parla di una visione di fondo sulla giustizia, sulla maniera di attuare il federalismo che è il vincolo con la Lega, sulla maniera di anteporre l'economia alle istituzioni e sulla maniera di intervenire anche nell'adempimento di questo mandato con gli elettori sul meno tasse, che è il punto di fondo toccato da Mario Baldassarri. Ed è inutile dirci, interventi a parità di gettito non sono la stessa cosa di interventi a gettito dichiarato ex ante, tanto più basso quanto più si è capaci di volere e di sapere tagliare spesa pubblica. Sentiamo come la pensate voi e poi torniamo ai nostri ospiti per dare a loro la possibilità di rispondere. Iniziamo con Enzo da Carbonia. Enzo ci ascolta, prego. Sì, buongiorno e grazie dell'opportunità. Dica. Io credo che la posizione di Fini oramai sia decisamente chiara ed è in contrasto con la leadership di Berlusconi. Quindi se l'onorevole Fini assieme a Rutelli, assieme a Casini vogliono fare questo famoso terzo polo, abbiano il coraggio di farlo, perché secondo me in questo paese il bipolarismo, che dovrebbe essere la strada più ovvia e più giusta, evidentemente c'è una larga fetta del paese che non la vuole. Quindi questo onorevole Fini, se non vuole il bipolarismo e quindi non condivide la linea politica dell'onorevole Berlusconi, ed è evidente, io vorrei che il PD e Berlusconi ci facessero capire se evidentemente in questo paese voglio il bipolarismo o se no questi tre personaggi, Rutelli, Casini. Grazie Enzo, cioè, lei dice oramai non c'è molto spazio per articolazione interna, fuori dal PDL, ed eventualmente andiamo a vedere se gli italiani la pensano come Berlusconi e come i bipolaristi o se invece sono su posizioni terzafortiste più proporzionaliste. Sentiamo Barbara dalla provincia di Treviso, che pensa Barbara? Io penso che il trasformismo di Fini sia arrivato a un punto limite. Il paese ha dimostrato anche nelle ultime regionali di aver voglia, bisogno, chiede stabilità e chiede che venga attuato il programma con il quale il PDL insieme alla Lega Nord si è presentato alle politiche 2 anni fa. Alle politiche, 2 mesi prima delle politiche, Fini e Berlusconi hanno fondato questo nuovo movimento che sì, dicono si chiama carismatico, ma mi fa un po' sorridere questa definizione, e 2 mesi prima delle elezioni hanno proclamato anche i loro intendimenti su un programma. La Lega Nord, alleata del PDL, è confluita nell'alleanza con un chiaro messaggio: noi facciamo parte di questa alleanza perché vogliamo portare avanti il federalismo fiscale. Ora Fini, dopo le regionali, e questa è la sintesi. Però Barbara, lei che dice, che sviluppi? Sì, ha visto sgretolarsi questo e quindi qui comincia il conflitto. Noi cittadini siamo stufi di conflitti. Che Fini abbia visto poi nella Lega Nord un movimento che sta prendendo piede perfino nelle regioni storicamente della sinistra, vedi le Marche, vedi l'Emilia Romagna, vedi la Toscana, io capisco che lui faccia i capricci, ma questo non è il metodo di governare. Il metodo di governare è quello di pochi ma chiari intendimenti e portarli avanti. Grazie a Barbara. Barbara è chiaramente espressione di una parte molto rilevante che si è espressa nell'elettorato del centro-nord alle regionali e ha detto: qui c'è un impegno di cui la Lega è garante, e per realizzare questo impegno PD ha ricevuto anni per pensarci, adesso chi si tira indietro da questo, insomma, ci prende in giro. Questa è una reazione che temo l'onorevole Fini non è che ignori, ma dice: sono disposto a sfidare questa reazione in nome di una concezione diversa del centrodestra. Sentiamo ancora Sergio da Varese. Prego Sergio. Buongiorno, io volevo esprimere una sorpresa e una preoccupazione. Sorpresa per il fatto che a seguito dell'intervento di Fini tutti hanno cominciato a parlare di perché lo fa, perché l'ha fatto, dove vuole arrivare, ma nessuno ha discusso dei punti da lui sollevati, cioè se quanto fatto in tema di giustizia è veramente una riforma della giustizia per aiutare la giustizia oppure no, se quanto fatto in tema di immigrazione è destinato a combattere la clandestinità oppure è solo qualcosa per accontentare la Lega. Questo è il punto su cui vorrei sentire gli ospiti, anche lei, dottor Giannino. No, no, io glielo dico proprio immediatamente, cioè la mia opinione è che su questi temi non è chi non veda, come si dice con una formula un po' formale. Berlusconi, quando interviene sulla giustizia da anni, ha in mente un obiettivo che non riesce mai a ottenere, la riforma complessiva che smonta alcuni fondamenti dall'obbligatorietà dell'azione penale, e sono d'accordo anch'io, quando si entra su temi delicati, la separazione di IPM eccetera, si sa che cosa avviene in questo paese. Quando si fanno interventi sui processi o interventi cui effetti sono sui processi in corso a centinaia di migliaia, il chiedere, come ha fatto l'onorevole Fini e come ha fatto l'onorevole Bongiorno in questi giorni, presidente della Commissione Giustizia alla Camera, in interviste anche ieri, di volta in volta di ridiscutere, non significa amare il merito mentre Berlusconi non ama il merito, significa, siccome la politica è fatta di queste scelte, sul merito puntare i piedi ogni volta per dire: guarda, non siamo d'accordo, e quindi su questo, a costo di estenuarci, noi non siamo d'accordo e ti mettiamo i bastoni tra le ruote. Quando Berlusconi dice: ragazzi, dovreste condividere il fatto che qui c'è un obiettivo, e questo obiettivo sappiamo da 16 anni che è così complicato che se ci si mette a mettere i bastoni tra le ruote tra di noi diventa ancora più complicato. Quindi la differenza di fondo non è, secondo me, Sergio, quella di prendere sul serio o meno i punti di fondo sollevati da Fini. Quando Fini dice voglio una commissione per ridiscutere tutte le modalità di attuazione del federalismo fiscale, è come se dicesse: questo è un punto politico dirimente, perché io non sono d'accordo, come ha detto l'onorevole Fini, su il peso dato alla Lega nella sua alleanza che diventa stella polare del PDL. L'onorevole Fini ha parlato di un PDL che diventa quasi una brutta copia della Lega, perché la Lega, dice, è diventata, l'avete fatta così rilevante nel vostro rapporto con voi che è diventata elettoralmente dominante, tant'è che Berlusconi gli ha dovuto dire: ma come, abbiamo tre voti, tre volte tanto ancora i voti della Lega. E allora l'onorevole Fini, quando parla di questo, parla del merito, ma è come dire, appunto, no a un meccanismo di pura attuazione con decreti tecnici che vedono pochi, che fanno girare i numeri, perché io ho voglia di ridiscutere abimis dall'inizio la questione della Lega e del federalismo. Quindi Sergio, la questione non è solo nel merito, ma è sulla divergenza politica di un approccio di questo tipo, e ovviamente siccome la politica in Italia è lenta, come ha detto Stefano Folli, significa che non c'è una soluzione entro due settimane perché si va a votare a giugno, perché a questo non può credere obiettivamente nessuno, significa che passiamo un anno così perché l'eventualità è di andare a votare tra un anno, e quindi far perdere a questo governo il treno delle riforme in questa legislatura, e a quel punto dire: caro Berlusconi, la colpa è tua. Questa è la sintesi che vedo io. Eccoci tornati in studio, e per le risposte agli ascoltatori iniziamo con l'ordine con cui abbiamo proceduto, quindi chiederei a Mario Baldassarri questa volta molto più sinteticamente di dire secondo lei quanto e come questi toni nuovi, queste maniere nuove di vivere presenza Camera e leadership di governo e di partito insieme riusciranno a evitare che diventi l'articolazione della legislatura semplicemente un accidentato concorso a ostacoli per andare comunque a un voto anticipato. Se si tratta di due leadership diverse, quello sarà l'esito. Ma allora tre valutazioni molto sintetiche, dottor Giannino. La prima sul mio piano personale ho dedicato 15 anni della mia vita, gli ultimi 15, all'idea di costruire un grande partito popolare italiano aderente al Partito Popolare Europeo. Questo partito si chiama Popolo della Libertà e non ho nessuna intenzione di ricominciare da capo con qualsivoglia altra formazione politica. Questo è il mio partito e voglio che il mio partito, col mandato forte ricevuto dagli elettori, governi il Paese. La seconda, nelle mie precedenti riflessioni all'inizio della trasmissione ho posto un problema di programma elettorale e di contenuti da realizzare da parte del nostro governo col sostegno della nostra maggioranza, contenuti economici, sociali, fondanti anche per la Lega, perché se dovesse per caso mantenersi questa pressione fiscale o addirittura dovessimo essere costretti ad aumentarla ulteriormente, anche gli amici della Lega poi dovrebbero rispondere ai propri elettori, per esempio ai milioni di partite IVA del nord o del nord-est. Terza riflessione, vorrei esplicitare ancora il ragionamento che ha fatto Quagliariello, perché se per correnti si indica una formazione organizzata come nella Prima Repubblica e all'interno dei partiti l'un contro l'altro armate, io sono totalmente d'accordo con Quagliariello che questo rischio pericolo vada evitato. Vado oltre, la formazione di confronti, di opinioni può anche essere in prospettiva, come si può dire, ad assetto variabile, perché se le correnti di pensiero si formano su temi di programma elettorale, su proposte che devono essere confrontate e valutazioni, e allora ben venga questo dibattito, non è un problema di organizzazione settaria all'interno dei partiti che, come sappiamo, fece morire poi la Prima Repubblica e i partiti della Prima Repubblica, senza però chiudere gli occhi sul fatto che se non esiste un luogo di confronto all'interno del partito e un confronto tra Parlamento e Governo sui temi fondanti, il programma elettorale o, arrivo a dire, il codice genetico sia del PDL che della Lega, come ad esempio il tema delle tasse, beh, allora il rischio qual è? Quello che un po' viviamo tutti, soprattutto sul territorio, cioè che invece di un confronto sui contenuti si formino gruppi o gruppuscoli di potere che hanno fine a se stesso e addirittura a volte rischiano di impedire proprio la formazione di un consenso politico forte all'interno del partito e all'interno della maggioranza di governo per fare le cose che ci siamo tutti impegnati a fare. E evidentemente c'è la crisi economica, ma qui bisogna rovesciare i termini del problema, proprio perché c'è la crisi economica, quelle promesse elettorali sono oggi ancora più urgenti di prima e non si può invece dire siccome c'è la crisi economica e allora dobbiamo rinviare tutto di 2 o 3 anni o a chissà quando. Il centrodestra, il Popolo della Libertà è nato per fare quella rivoluzione liberale e democratica che concretamente vuol dire meno sprechi, meno spesa e meno tasse, soprattutto per le famiglie e le piccole e medie imprese. Bene, io la interrompo perché lei ha detto, insomma, delle cose impegnative. No a fuoriuscite, questo è il nostro partito, troviamo però la soluzione, articoliamo la corresponsabilità, ma ci sono dei problemi veri. Chiedo a Quagliariello, l'antitesi che lei ha posto tra luoghi di legittimazione della politica, partito e mandato degli elettori, se viene declinata con visione diversa, due leader forti che insieme incardinano responsabilità istituzionale e mandati politici, viene risolta solo dalla una lotta per la supremazia. La politica poi è capace di proporre anche lotte molto lunghe. De Gaulle non è che ci ha messo poco per cambiare la Francia e di volta in volta è dovuto tornare a casa, è dovuto poi riprendere l'agone politico, a volte anche aggirando i limiti della politica. Le storie sono lunghe quando ci sono leadership personali complesse e combattute. Allora, l'opinione la domanda che le faccio in sintesi, alla fine siamo alla svolta, come dice anche Stefano Folli, come piccolo sostengo io, come molti degli elettori vostri temono, perché se essere alla svolta significa che uno solo dei due, pur di restare in piedi, manda all'aria tutte le prospettive. Siamo a questo secondo lei, ed è giusto quindi essere determinati al punto di essere spietati per non mettere in discussione 16 anni di battaglie politiche e di radicamento, oppure c'è il tempo rispetto ai problemi dell'Italia per essere più moderati a costo di diluire la faccenda e di perdere tempo rispetto agli impegni di realizzazione delle riforme? Sono due settimane, tre settimane per capirsi, perché se la concezione della minoranza che ha Fini è quella del senatore Baldassarri, non vi sono problemi. In un grande partito a vocazione maggioritaria una minoranza non solo può esistere, ma è bene che esista. E voglio dire una cosa, nel nostro ufficio di presidenza Berlusconi è rimasto in minoranza tre volte in quest'ultimo periodo. Una, quando sosteneva accordo in tutta Italia con l'UDC alle regionali, oppure niente, perché secondo lui era una vecchia concezione della politica. Si è discusso e prevalsa un'altra posizione. Due, quando sosteneva il nome di un candidato in Puglia e ne è prevalso un altro. Tre, quando in Lazio è stato scelto non il suo candidato ma la Renata Polverini come presidente proposto agli elettori, anche per la sua contiguità con il presidente della Camera e per gli equilibri complessivi del partito. Ora, tutto ciò non sarebbe accaduto né in Forza Italia e tantomeno in AN. Quindi un passo avanti nel senso della democrazia interna del partito si è fatto ed è un passo notevole. Il problema qual è? Noi non possiamo permettere che il partito e la sua centralità arrivino ad ammazzare, come lei giustamente ha compreso, la nostra concezione di democrazia e quindi diventino un ostacolo a quel rapporto diretto, diciamo, tra gli elettori e gli esecutivi, che in Italia si è affermato dappertutto, poi ognuno lo interpreta con le sue caratteristiche personali e quelle di Berlusconi sono sicuramente uniche. Ma non è che questo non valga anche per il partito nostro concorrente oppure non valga in sede locale. Nell'interrompere Quagliariello, e scusarmi con Stefano Folli che abbiamo fatto parlare troppo poco, dico che questo è proprio il punto, perché tutti coloro che vorranno fermare dopo 16 anni comunque di ricorrenti avventure ma anche battaglie politiche con successo di Berlusconi, tutti coloro che vorranno fermare questo identificano oggi nel ritorno ai partiti la modalità per mettere un filtro e un bastone in quelle ruote. Per questo io penso invece che questa sarà una battaglia di svolta. Temo che non si deciderà per la possibilità di andare al voto entro due settimane e il rischio è quello di guerriglia al posto di provvedimenti di governo, anche se nel merito io la penso come Baldassarri, ci sono degli interventi per abbassare le tasse con meno spesa che andrebbero dichiarati con grande chiarezza, che cambierebbero anche le coordinate del federalismo, perché o sarà così oppure quegli interventi costeranno di più, e piuttosto che interventi che costano di più ancora, io penso che sia giusto combattere con gli artigli e le artiglierie. Allora, fine della trasmissione di oggi, appuntamento a domani, grazie in regia a Filippo Aureggi, grazie in redazione Alessandro Marco Tulli, la linea al giornale radio, appuntamento a domani.